Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Alla ricerca del gol perduto. E che gol, eh? Forse uno dei più belli della storia del calcio, di cui fino ad oggi non esisteva alcuna immagine o fotografia. Ora invece, grazie alla passione di un giornalista, la testimonianza di un campione e i moderni strumenti tecnologici, ecco che quel gol, nella sua ricostruzione digitale, possiamo finalmente vederlo. E allora cominciamo a raccontare questa storia insieme a Nando Sanvito, amico e collega di Sport Mediaset. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi di avermi chiamato. Caro Nando, sveliamo subito il primo mistero. Di quale partita, di quale gol stiamo parlando? La partita del 31 marzo 1957 è una amichevole tra Belgio e Spagna. Un'amichevole creata perché da una settimana i minatori spagnoli che venivano contattati, contrattati, contrattualizzati dal governo belga erano cominciati ad arrivare ed erano arrivati con un accordo che sostituiva di fatto gli italiani. Dopo la tragedia di Massinelli, il governo italiano aveva deciso di finirla lì con la prestazione di manodopera italiana a cambio di carbone. Questo accordo fu rilevato dal governo spagnolo, il governo belga fece un accordo con loro e quindi per celebrare i primi emigranti spagnoli che arrivavano nelle miniere di carbone del Belgio organizzarono questa amichevole. Doppietta di Di Stefano, doppietta di Luis Suarez, assolo di Mateos. La Spagna domina e incanta, evidentemente anche il cineoperatore incaricato delle riprese, che non riprende appunto il primo gol di Di Stefano, un colpo di tacco al volo da leggenda, vero Nando? Roba da non crederci oggi, eh? Io stesso quando parlai con il protagonista di questa storia, che è Alfredo Di Stefano, anni e anni fa, quando era già presidente onorario del Real Madrid, stentavo a credere quello che lui mi diceva, cioè che in quella partita non ci fossero immagini relative al suo gol. Sono andato a cercare effettivamente se di quella partita non ci fossero immagini e invece ho scoperto che le immagini c'erano ed erano nella Filmoteca Nazionale Spagnola e ci sono alcuni minuti relativi a quella partita che finì 5-0 per la Spagna. Noi intanto nel nostro piccolo abbiamo recuperato l'audio di quel commento. Garay, capitán del equipo español, saluda a su collega belga y ahora vemos una jugada de Gento con gol de Alfredo Di Stéfano. Vean este otro gol de Suárez tras driblar a varios contrarios. Y ahora el de Mateos, que fue el tercero. Se llega al descanso con ventaja de España por 3-0. En la segunda parte, Di Stéfano marca el cuarto. E inmediatamente Luis Suárez el quinto y último. Espléndido partido de la selección, pero sobre todo de Di Stéfano y Suárez, que al día siguiente eran colmados de adjetivos admirativos en la prensa de Bruselas. Tra l'altro, Nando Sanvito, dalle immagini di quella sintesi non manca solo il gol di Alfredo Di Stéfano, giusto? Siccome di gol se ne sono persi 3 e non uno, 3 su 5, facevano quello che normalmente facevano tutti, non solo in Spagna, ma in qualsiasi nazione dove si fabbricavano questi tipi di notiziari. Si prendeva un'azione che aveva come protagonista l'autore del gol, un'azione qualsiasi, e poi si passava al fotogramma della palla in rete. Così in qualche modo si dava documentazione di un gol. Solo che in questo caso tu vai a vedere come avviene il gol e non c'entra nulla con quelle che sono poi le testimonianze di chi era presente. Ma come è avvenuta allora quella rete? Permettimi, Nando, di chiederlo al nostro secondo ospite e testimone oculare dell'accaduto, oltre che ben presente nel tabellino di quella gara. Luis Suarez, benvenuto a Olimpia. Grazie anche a voi. Allora, signor Suarez, ci racconti questa autentica perla messa a segno da Di Stefano al 25esimo del primo tempo. Gol di tacco, giusto? Di tacco, sì, sono stati fatti molti gol, no? Anche qui in Italia, eccetera, però non di questa maniera, no? Diciamo che per quelle che seguono un po' il calcio, anche se sono passati qualche anno, quando ci facevano vedere questo portiere Higuita, no? Che faceva quelle parate col tacco, no? Però le faceva con tutte e due lui, e poi una palla che le veniva, diciamo, di fronte, davanti, no? Mentre che questa, diciamo che è un'azione che è partita un po' dalla difesa, lui che giocava molto a tutto campo, è venuto a prendere questa palla dal difensore verso la metà campo, giù di lì, e ha cominciato a impostarla sulla destra, sull'ala destra. L'ha impostata su questa ala, che era un'ala molto veloce, però lui era velocissimo, no? Questo è partito verso l'aria, lo accompagnavamo anche in due o tre, perché c'era anche gente del Madrid e io lo accompagnavo un po' più in fondo. E quest'ala è andato fino alla riga del fondo campo e ha fatto un cross, però gliel'ha fatto un po' indietro, per cui lui era in piena velocità, fermarsi non poteva e ha avuto questo intuito di alzare questa gamba destra e prendere col tacco, le ha mandato lì nel 7, no? È stata una cosa straordinaria, ha avuto una intuizione e le è uscita bene, no? Perché non sono cose facili da realizzare, no? Anche per un grande calciatore. Però le è riuscito e è stato un gol fuori dalla norma. Infatti anche il portiere, quando l'hanno intervistato, diceva sempre che non è riuscito a capire niente, perché è stata una cosa molto molto molto difficile, molto bella. Immagino, signor Suarez, la sua emozione nel rivedere oggi quel gol di Di Stefano quasi 60 anni dopo. L'ho trovato emozionante anche perché lui non c'è più, se ne è parlato più di una volta, no? Era un gol talmente straordinario che è stato un peccato non poterlo fare proprio dal vivo, no? Proprio reale, perché sicuramente la gente l'avrebbe capito di più della difficoltà, quella cosa straordinaria che ha fatto. E mi ha fatto molto piacere, perché io per lui nutrivo una grande ammirazione, che secondo me è il più grande calciatore che io ho visto. Luis Suarez, grazie per questa splendida testimonianza. Grazie mille, grazie anche a voi. Nando Sambito, abbiamo sentito le preziose parole di Luis Suarez, che è stato tuo attivo collaboratore nella ricostruzione digitale di quel gol, vero? Guarda, mi sono portato dietro un tecnico del 3D, che ha anche delle macchine per lavorare e costruire normalmente questi tipi di situazioni. Abbiamo fatto un paio di sessioni in casa di Suarez, guardando proprio tutti i dettagli, non solo il gesto tecnico, ma anche la posizione dei giocatori in campo, come erano vestiti, come era fatto il pallone, come erano le porte, come era l'erba del campo, come erano gli spalti, insomma una ricostruzione anche filologica che poi ha avuto una buona resa, credo, perché anche ripetuta da tre diverse angolature, come se noi avessimo avuto una telecamera sugli spalti, una diciamo a bordo campo e una su un giocatore, quindi abbiamo tre diverse angolature da cui apprezzare l'azione, e la resa è stata buona, e poi soprattutto l'eco che ha avuto nel mondo, perché in tutto il mondo hanno ripreso questa notizia, perché Di Stefano è un'icona del calcio mondiale. Ora quel gol potete vederlo online sul sito di Sport Mediaset e anche sulla pagina web di Olimpia. Nando, alla fine di questo viaggio nel tempo, che sensazione ti rimane? Ma l'orgoglio di un'operazione giornalistica e culturale che è servita a riesumare, a far resuscitare un gesto tecnico che fa parte del patrimonio calcistico di un grande interprete come Alfredo Di Stefano, e poi aver dato la possibilità a livello umano a un grande campione come Luis Suarez di sdebitarsi, tra virgolette, con un suo amico, perché per me era un'operazione, come dire, giornalistica e culturale. Per lui è stata qualcosa di umano, come un debito umano che aveva con questa persona, e che in qualche modo questo tipo di ricostruzione è stato parte proprio di un percorso affettivo che lui, di riconoscenza che lui ha sempre avuto nei confronti di un amico. Nando Sambito, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Olimpia, miti e verità dello sport. Si dice che non giochiamo tutti allo stesso modo, ma è per questo che siamo chi siamo. Noi abbiamo una cosa in comune: la gioia e il modo di esprimersi del Brasile. Siamo tutti ansiosi di vedere il suo magico stile di gioco. Vincerò la Coppa del Mondo per il Brasile. Te lo prometto. Beh, non si può dire che Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelé, non sia stato di parola. Il fuoriclasse brasiliano del Santos ha infatti conquistato la Coppa del Mondo nel 1958 in Svezia, nel 62 in Cile e in Messico nel 1970. Come sapete, è nelle sale ora un film a lui dedicato, soprattutto dedicato alla nascita del suo talento e del suo mito. E allora ne approfittiamo per mettere in luce qualche aspetto nascosto di Orei. E lo facciamo con un amico, un collega e un grande conoscitore del calcio brasiliano. Darwin Pastorin, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, grazie a tutti voi. Allora Darwin, ti chiedo subito, ma qual è il peso specifico di Pelé nella storia del calcio brasiliano? Non è stato il più amato, soprattutto dai poveri, perché nelle favela ancora adesso il mito vero è quello di Mané Garrincha, l'angelo dalle gambe storte, l'eroe analfabeta che con una finta sola conquistava le folle, commuoveva, era vicino alla disperazione dei poveri, fu un eroe tragico ed epico, mentre Pelé è stato anche il poster di Pelé è tutto attaccato, un personaggio che è nato povero, ha saputo gestire la propria gloria fino a diventare uno dei personaggi anche più ricchi, no, del Brasile, più celebri, con amori da rotocalco. È stato comunque un grande campione. Ricordiamo tutti quando pianse sul petto di Gilmar alla fine della Coppa del 58, la vittoria sulla Svezia, segnò più di 1000 reti e diede vita anche al Barnum dei Cosmos a New York, ed è ancora adesso, quando si muove, una celebrità. Fenomenale in campo, ma fuori dal campo, dobbiamo ammetterlo, non certo un oppositore di quel regime dei generali che a lungo tenne il Brasile sotto scacco. Beh, diciamo, Dario, che fu diciamo non un ribelle come il dottor Socrates, che non fu un personaggio, voglio dire, dalla schiena dritta come Jean Saldanha, che venne cacciato da Medici, prima l'allenatore, prima dei mondiali del 70, e il posto di Jean Saldanha venne preso da Zagara. Diciamo che fu viaggiò in maniera parallela, ecco, diciamo così. In campo però era un vero prodigio, anche perché diventare questo mito planetario negli anni in cui non c'era di fatto la TV, o almeno quella onnipresente di oggi, Ma sicuramente sì, anche perché a sentire ad esempio i miei amici Sormani e Altafini, molte delle sue prodezze non vennero riprese dalla televisione. In molti incontri c'era soltanto un radiocronista, soprattutto quando il Santos andava a giocare fuori dal Brasile e a fare le amichevoli ad esempio i paesi del Centro America. Era un giocatore capace di far tutto, perché con il destro, sinistro, di testa, tra l'altro lui era anche il portiere di riserva del Santos in caso di infortunio o di espulsione del portiere titolare, e anche in porta, a sentire sempre Sormani e Altafini, era un fenomeno. Quindi dal punto di vista calcistico non si discute assolutamente. Quello che dico è che è diventato poi un personaggio a tutti gli effetti, quasi una star di Hollywood, e non appartiene certo a quei giocatori che hanno fatto l'epica del calcio brasiliano. Però ovviamente noi siamo ancora qui a discutere più bravo Maradona o Pelé, altri nomi non vengono fatti. Quali sono state secondo te le più belle partite nella carriera di Pelé? Ma io direi sicuramente la finale con la Svezia del 58, perché questo ragazzino fece delle meraviglie assolute, era lì cominciò il mito della perla nera. Poi però, ecco, volendo andare più vicino, il 1970, quando il Brasile conquistò definitivamente con la terza vittoria la Copa Rimé, ecco, quel Pelé del 70 è un Pelé maturo, capace di segnare un gol incredibile all'Italia nella finale, rimanendo sospeso in aria con Burnic che salta e scende, e Gianni Brera scrisse che Pelé sembrava appeso a un immaginario ramo di albero, no? Perché quel colpo di testa, ecco, andatelo a rivedere, Italia Brasile 4-1 del 1970, andate a vedere quel colpo di testa di Pelé, perché è formidabile. Intanto Darwin, però godiamoci le testimonianze dirette di queste partite da leggenda. 29 giugno 1958 a Stoccolma, finale della Coppa Rimé tra la Svezia padrona di casa e il Brasile di Pelé. Gli svedesi passano addirittura in vantaggio con un gol di uno dei campioni più amati del nostro calcio, il grande Nils Liedholm, che così ricordava quella rete al nostro microfono. Noi pensavamo di battere il Brasile, ma quello abbiamo capito dopo che non si poteva fare. Io avevo detto ai ragazzi prima, cerchiamo di fare gol subito, perché io ho tanto male quella gamba che mi avevano picchiato i madrileni. È stato un passaggio da Simonson, da destra, e io sono andato su, non so perché, e ho trovato Bellini e Zito in mezzo a loro due, e allora ho fatto stop. E stop, è venuto un dribbling e ho potuto tirare in porta a fare gol. Poi però si scatena il Brasile. Doppietta di Vavà, solo di Zagallo, doppietta anche di Pelé, che al 55esimo segna un gol da leggenda. Tornando per Pelé, Pelé domina lo peito, il calcanhar per Zagallo, Zagallo prepara, si tem Pelé, levantou Pelé, entrou di cabeça per Warri, qui gol! Stadio Azteca di Città del Messico, 21 giugno 1970, ancora la finale della Coppa Rimé. Stavolta il Brasile di Pelé affronta l'Italia, reduce dall'epico 4-3 sulla Germania Ovest in semifinale. I verde oro si impongono per 4-1. La prima rete al 18esimo è proprio di Pelé, con uno straordinario colpo di testa. La rimessa in gioco di Tosso, Riverino. Un cross di Riverino, colpo di testa di Pelé. Entra fino al vantaggio. Ha segnato Pelé al 18esimo minuto. Ecco, vedete la rimessa in gioco di Tostón, il cross di Riverino e il colpo di testa di Pelé, sul quale Albertosi non può intervenire. Il ricordo di Tarcisio Burnic, l'altro protagonista di quell'istante indimenticabile. Mi ha preso in contropiede, perché io pensavo, lui era pari con me, io siccome arrivava il cross di Rivellino, ho fatto un passo in avanti, mentre i brasiliani come calciano sotto, e il pallone si è alzato e io ero in contropiede. È andato su bene, però senza contrasto. Allora Darwin, eccoci alla fine del nostro viaggio sulle tracce del vero Pelé. Ti chiedo, qual è l'eredità di O'Reilly, uomo e calciatore? Ma il Pelé calciatore è che il calcio è soprattutto fantasia, è estro, è prendere il pallone, tentare il dribbling, il colpo di tacco, tentare la rovesciata, eccetera. E come uomo ha lasciato un esempio che si può avere un dopo calcio altrettanto importante e ricco non soltanto di soddisfazioni ma anche di denaro. Ecco, Pelé è uno che non si è fermato sul campo, è andato oltre e oggi è un uomo che comunque continua a far parlare di sé, bisogna dire, in ogni caso può piacere o no, positivamente, cioè non divide come divide, posso dirlo, il nostro Maradona? Sì, diciamo. Ecco, non divide come il nostro Maradona, però adesso ti faccio una confessione, anche se sono italo brasiliano, io tra Pelé e Maradona lo dico sottovoce, preferisco Maradona. Ecco, diciamo, mi dispiace, però è così. Ecco. Al secondo posto Pelé, ma al primo metto Diego Armando Maradona. Darwin Pastorin, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te, grazie a voi. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.